nemica, dimmi se giungi a me, madre o nemica, figlia di Berenice, in me la madre or vedi, ma sposa di Farnace, vedi in me la nemica, parla, dove s'asconde del mio fiero nemico.